Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Una buona giornata, gentili ascoltatori, ben ritrovati a Nessun Luogo è Lontano. Il buongiorno anche da Miriam Lucchetti e Massimo Brugnone, che sono in redazione con me, e Paolo Corleoni alla parte tecnica. Vi ricordo come sempre le coordinate per poter interagire con noi, che significa porre domande, commentare o anche criticare, perché no, i temi che stiamo trattando. La mail nessunluogo@radio24.it, gli sms al 349-238-6666, poi abbiamo la pagina Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, e infine potete cinguettare l'indirizzo Twitter Nessun Luogo 24. Oggi, lo avete sentito anche dal GR, tiene ancora banco la vicenda sudafricana che riguarda gli scontri nelle miniere, e noi partiamo proprio da lì. As striking workers at the Lonmin mine in South Africa mourned their colleagues who were gunned down by police last week, managers issued an ultimatum. The message was, end the wildcat pay strike by Monday or face the sack. I saw the dry bone. Nonthe Sifongwenya's brother-in-law has been missing since police opened fire on striking mine workers. But officials at the help desk set up outside a hospital can't help her. His name isn't on their list. Una settimana di lutto nazionale l'ha proclamata il presidente sudafricano Jacob Zuma. Lo stesso Zuma oggi aveva invitato la Lonmin, la società britannica estrattrice di platino che opera in quella zona, a rimandare il suo ultimatum di 3 giorni agli scioperanti che dovrebbero tornare al lavoro, sarebbero dovuti tornare al lavoro quest'oggi. Ieri solo il 27% dei lavoratori si era ripresentato. I fatti li avete sentiti dai nostri GR, l'avete letto sui giornali: 34 minatori uccisi dalla polizia, in tutto 44 le persone morte a Marikana. Siamo in una zona mineraria a un centinaio di chilometri a nord di Johannesburg. Il tutto era nato da uno sciopero di protesta da parte dei minatori che reclamavano migliori salari e migliori condizioni di lavoro. Nei giorni scorsi una commissione d'inchiesta interministeriale indetta sempre da Zuma ha iniziato i propri lavori, dovrà chiarire le responsabilità di ciò che è accaduto. C'è chi però in questa situazione evoca anche scenari apocalittici, addirittura guerra civile. È stata Ela Gandhi, che fra l'altro è stata deputata dell'African National Congress. C'è davvero il rischio di una guerra civile, di questi così tragici scenari? Ed è la prima domanda che rivolgerei a padre Giulio Albanese, che ci ha raggiunto. Padre Giulio, buongiorno. Buongiorno. Allora, padre Giulio, direttore della rivista Popoli e Missione, lunghissima esperienza in terra d'Africa. Questi scenari apocalittici sono, come dire, speculazioni che cavalcano un'onda emotiva, o effettivamente c'è il rischio che si ripiombi in anni bui? La situazione indubbiamente è grave, c'è un grande malcontento e c'è una costante divaricazione, una crescente divaricazione tra i ceti meno abbienti, che di fatto dispongono della stragrande maggioranza della ricchezza nazionale, e i ceti, mi riferisco in sostanza a un manipolo di nababbi, e le masse impoverite, cioè la gente che fa fatica a sbarcare il lunario. In sostanza sta aumentando la forbice tra ricchi e poveri. La seconda considerazione è che è vero che siamo nella stagione del post-apartheid, però siamo già lontani dalla stagione di Nelson Mandela, e questo fondamentalmente perché l'African National Congress, il partito che ha sempre vinto le elezioni, grazie proprio direi alla testimonianza, alla leadership di Mandela e poi successivamente, anche se in tono minore, di Thabo Mbeki, suo successore, ebbene questo partito sta attraversando profonde lacerazioni interne, direi che è caratterizzato soprattutto da una grande insofferenza. Si sta dividendo fondamentalmente in due aree, in due gruppi, in due formazioni. Da una parte abbiamo i falchi e dall'altra le colombe. Le colombe, devo dire che hanno tutto sommato, continuano a fare tutto sommato gli interessi dei ceti meno abbienti, sono quelli che vogliono mantenere il contatto con la gente, con i lavoratori, con le popolazioni afro. Sì. Anche se al loro interno bisogna dire che vi sono anche altre formazioni che addirittura fanno riferimento ad un possibile ritorno alla lotta armata, come ai tempi dell'apartheid. E poi invece ci sono i falchi che hanno sposato la logica liberista, la logica in particolare dei BRICS, Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica. In sostanza si dice il Sudafrica può crescere, in effetti sta crescendo, ha un PIL quest'anno previsto intorno al più 7%. Non dimentichiamo che l'Africa subsahariana probabilmente quest'anno nel 2012 crescerà del più 6%. Sì, forse sono dati positivi, però, ed è l'aspetto che vorrei sottolineare, non dimentichiamo che tutto questo ha un prezzo, perché lo si voglia o no, che se ne dica, la manodopera da quelle parti è davvero a basso costo e naturalmente a pagare il prezzo più alto è soprattutto la povera gente che fa fatica davvero a sbarcare il lunario. Dunque la sfida è quella di spalmare la ricchezza sulla società sudafricana e questo paradossalmente in questa stagione post-apartheid non sta avvenendo. 349-238-6666, il numero per porre domande o commentare quello che sta accadendo in Sudafrica. Era dai tempi dell'apartheid che non si vedeva una violenza così accesa, così cruente, un così gran numero di vittime, ma dobbiamo fare i dovuti distinguo per evitare di fare di tutta l'erba un fascio. Per capire meglio che cosa è accaduto e di fronte a quali sfide si trova la società sudafricana, abbiamo raggiunto Crispin Cinguno, che è un ricercatore esperto di sindacati sudafricani e di sociologia della violenza. Lui studia da anni quello che accade nei distretti minerari attorno a Johannesburg e ascoltate che cosa ci ha detto rispetto alla reazione da parte dei sudafricani a questi eventi. Most of the people here, they are expressed shock. Gran parte della popolazione qui è scioccata da questa vicenda, specialmente per il modo in cui i minatori hanno perso la vita. Non ci aspettavamo che una cosa del genere accadesse nella nostra democrazia. Perciò è necessario analizzare meglio la questione. Sembra infatti che si stiano replicando episodi che avvenivano durante il regime oppressivo del Partito Nazionale. Per questo le persone ora vogliono capire. Perché stanno succedendo cose del genere? La verità è che i lavoratori neri non sono veramente tutelati nel sistema lavorativo. Abbiamo una delle migliori legislazioni del lavoro, ma sorprendentemente accadono episodi tanto violenti. Il paese è in stato confusionale, bisognerà capire il motivo di tanti morti. Purtroppo la violenza sta diventando molto comune negli scioperi. Storicamente nelle manifestazioni dei lavoratori ci sono sempre stati episodi di violenza. La violenza sta diventando una routine, un modus operandi. La cosa scioccante però nel caso delle miniere di Marikana è il numero di morti. E questo era il commento di Crispin Cinguno, ricercatore esperto di sindacati e questioni minerarie sudafricane dell'Università di Witwatersrand. Questo è il primo commento che abbiamo chiesto, riascolteremo ancora la sua voce. Padre Giulio, un'altra cosa scioccante, oltre al numero dei morti, è stata l'attitudine della polizia. Dalle foto che abbiamo visto, dai brevi stralci di video che abbiamo visto, si può dire quantomeno che, come dire, la gestione dell'ordine pubblico è stata attuata con mano pesante. Nel senso che noi non sappiamo esattamente, non abbiamo visto esattamente che cosa è successo prima, quale tipo di provocazione è stata fatta, però di sicuro al posto di scudi di plastica protettivi, manganelli e cannone d'acqua abbiamo visto Kalashnikov sparare sui minatori. Che cosa possiamo dire su questo punto? Possiamo dire, a mio avviso, che la cosa per certi versi è stata premeditata, nel senso che da parte delle forze di polizia si sapeva molto bene che il malcontento stava lievitando a dismisura, tant'è vero che c'erano già stati morti, c'erano stati feriti, e che era necessario soprattutto rilanciare la trattativa sindacale attraverso un negoziato. Invece purtroppo le autorità da questo punto di vista hanno fatto l'esatto contrario, hanno esasperato la situazione al punto tale che quando c'è stata la mattanza, cosa è successo? In effetti alcuni dei lavoratori si sono presentati avendo in mano dei macete, ma questo proprio come segno di provocazione, proprio perché non volevano assolutamente tornare a lavorare a quelle condizioni. E che cosa è successo? Che a questo punto è stato dato l'ordine di sparare. Ora, è stata davvero una mattanza, inutile nasconderselo, ma ci sono davvero delle responsabilità precise. Io mi auguro che questa commissione di inchiesta voluta dal presidente Jacob Zuma in una maniera o nell'altra serva ad evidenziare le responsabilità, da parte sia delle forze dell'ordine, ma io direi anche di alcune componenti dell'African National Congress, in particolare del governo di Pretoria, perché è inutile nasconderselo, se questo è successo è perché comunque ci sono delle spinte all'interno dell'esecutivo che in una maniera o nell'altra vogliono applicare a tutti i costi queste azioni, non fosse altro perché per loro è molto importante affermare il primato del business. In fondo quello che dicono i sindacati in Sudafrica ha una sua logica. Loro dicono bisogna innanzitutto e soprattutto tenere conto del bene comune e dunque anche dei diritti dei lavoratori che sono sacrosanti, anche perché solo a queste condizioni si potrà parlare di una crescita del prodotto interno lordo che risponda un po' ai criteri di equità. Bisogna dire però che vi sono anche delle responsabilità legate a quelle multinazionali, a quei gruppi imprenditoriali stranieri che in questo momento stanno facendo affari a bizzeffe. Adesso questa miniera dove sono avvenuti i disordini sappiamo che è sotto il controllo di una società britannica, sì. Dunque da questo punto di vista questi signori dovrebbero fare un serio esame di coscienza, ma è anche vero che vi sono altre situazioni molto simili nel Sudafrica e non solo nel Sudafrica, nell'Africa australe e più in generale nell'Africa subsahariana. Pensiamo a quelle che sono le attività imprenditoriali, per esempio, non so, della Cina o di altri paesi dei BRICS che di fatto stanno portando oggi avanti nelle Afriche, io preferisco parlare al plurale e non al singolare, sì. Perché è un continente tre volte l'Europa, stanno portando avanti delle attività imprenditoriali in cui si punta decisamente alla cosiddetta massimizzazione dei profitti senza tener conto assolutamente di quelle che sono le esigenze della società civile, dei lavoratori in primis. Ecco, le esigenze dei lavoratori, questa forbice tra i minatori il cui salario è veramente bassissimo, di questo ci parla ancora Chris Penn Cinguno, lo ascoltiamo insieme. First of all, we need to really have got an in-depth understanding as to what is the problem. Prima di tutto bisogna capire la portata del problema. Stiamo parlando di un sistema al collasso. Le violenze sono scoppiate in un contesto di degrado. I minatori vivono in villaggi attorno alle miniere completamente abbandonati dalle istituzioni e dalle forze dell'ordine. Sono zone che lo Stato ignora completamente. Il vero problema qui sono le contraddizioni della società sudafricana. Il livello della qualità di vita dei minatori è inaccettabile. Il loro salario è inferiore ai 300 euro al mese per fare un lavoro così duro e pericoloso. Più del 60% dei lavoratori vive in case senza acqua corrente in condizioni miserabili. Allo stesso tempo in questo paese vivono alcune delle persone più ricche del mondo. Per quanto riguarda i sindacati, poi una volta erano molto forti nella zona di Marikana, ma ora sono spesso cooptati dalle compagnie di estrazione mineraria. Si tratta di una questione molto complessa che riguarda tutta la società sudafricana e non solo i minatori di Marikana. Credo che il governo debba investire nell'industria mineraria perché gli stipendi sono troppo bassi e il livello di disoccupazione è alto. Compared to in other industry, in other, especially in other countries. Questo per dare il quadro della situazione dei lavoratori delle miniere, dove vivono, quanto guadagnano e sicuramente la forbice, i paradossi, anche le contraddizioni di un paese che ricordava Padre Giulio Albanese crescerà del 7,5%. Il PIL, sono crescite incredibili per un'Europa che arranca, forse in tutta l'Africa solo il Ghana potrà superarli, ma grazie alla scoperta di nuovi pozzi petroliferi. E quindi, come giustamente diceva Padre Albanese, c'è anche un prezzo evidentemente da pagare per questa crescita. Manca un minuto alla borsa, ma voglio introdurre un altro argomento, Padre Giulio, che è questo. Oggi il Mail and Guardian, che è uno dei principali quotidiani sudafricani, titola dicendo che la violenza ormai è diventato il modus operandi degli scioperi nel paese. Avrà il Sudafrica gli anticorpi necessari per risolvere questa violenza, per scioglierla? Sì, ce l'ha. C'è la tradizione dell'Ubuntu che appartiene all'antropologia di quei popoli, i popoli Zulu, Xhosa, che dice che fondamentalmente l'essere, da un punto di vista ontologico, quello della persona, non può prescindere dall'altro. Io sono perché tu sei. E questo è un qualche cosa che appartiene al patrimonio di quelle terre, è un qualcosa di fortemente radicato. Non dimentichiamo che in Sudafrica ai tempi di Mandela poteva esserci la guerra civile, poteva esserci un indicibile bagno di sangue, e questo non è successo proprio perché nolente o volente figure carismatiche come Mandela, ma lo stesso pensiamo al vescovo anglicano Desmond Tutu, premio Nobel, beh, questi signori in una maniera o nell'altra sono riusciti in una maniera o nell'altra proprio a fare riferimento a quello che è il patrimonio ancestrale di queste culture. E io questo credo che sia un elemento di speranza. Sono convinto comunque che il buon senso prima o poi prenderà il sopravvento. Certo, bisogna dare maggiore spazio alla società civile, bisogna soprattutto far sì che la politica risponda non solo al diktat dell'interesse. Ecco, sulla politica adesso torniamo, ma la tragedia nella miniera di Marikana riaccende i riflettori sulla questione del Sudafrica, sulla questione delle condizioni di lavoro di molti minatori sudafricani che guadagnano poche centinaia di euro al mese, che chiedevano migliori condizioni di lavoro, e poi è successo quello che avete letto sui giornali: un bilancio di 44 vittime, 34 minatori appunto uccisi dalla polizia. Il presidente sudafricano ha dichiarato, oltre a una settimana di lutto nazionale, una commissione interministeriale d'inchiesta. Siamo con padre Giulio Albanese, direttore della rivista Popolo e Missione. Con lui volevo affrontare l'ultimo capitolo di questa vicenda, che è quanto il presidente sudafricano, al di là delle dichiarazioni un po' di facciata e doverose in questo caso, quanto davvero riuscirà a fare luce su quanto è avvenuto e attribuire le giuste responsabilità. Come personaggio diciamo che non ha sicuramente una statura morale, un'autorevolezza come quella dei suoi predecessori, mi riferisco in particolare a Nelson Mandela, ma anche lo stesso Thabo Mbeki, inutile nasconderselo, diciamo che per quanto riguardava l'indirizzo politico sicuramente era molto più moderato, e poi in ogni caso non era così populista come invece Jacob Zuma, che è un grandissimo oratore, è riuscito in questi mesi a far presa, in questi anni a far presa anche sulle masse, però di fatto, poi lo si voglia o no, è un personaggio che di fatto ha sposato appieno certe politiche liberiste. Ora c'è da considerare che in Sudafrica, e questo è un aspetto a mio avviso che non va sottovalutato, vi è un grande rispetto per quanto concerne gli investimenti stranieri, il mercato in generale, anche da parte del sindacato, il quale dice a chiare lettere che è necessario investire in Sudafrica come in altre parti del continente. Il problema di fondo qual è? Che tutto questo deve avvenire nel rispetto delle regole del gioco. Ed è interessante perché sulla stampa sudafricana in questi giorni è venuto fuori un discorso, un dibattito sulla globalizzazione. E si parla della recessione, soprattutto nei cosiddetti paesi industrializzati, quelli del nord del mondo, la vecchia Europa, gli Stati Uniti e quant'altro. E quello che mi ha colpito è che alcuni osservatori, alcuni analisti hanno messo in risalto un aspetto che a mio avviso a noi qui in Europa sfugge. Non è solo una crisi dei derivati, dei prodotti tossici, non è solo una questione di speculazioni a piazza affari o sui mercati finanziari, è qualcosa di molto più complesso. Loro hanno parlato di crisi antropologica. E credo che questo sia un aspetto sul quale dovremmo riflettere, perché se da una parte è giusto rispettare le regole del mercato, queste comunque devono sempre essere in ogni caso in funzione del bene comune e del bene della persona umana, e questo purtroppo bisogna dirlo a tutte le latitudini, non solo nelle vecchie economie, ma anche e soprattutto nelle nuove economie, nei paesi emergenti, quelli che hanno investito a dismisura nelle cosiddette economie reali. Ebbene, questi concetti non sono così chiari, tant'è vero che molte volte queste nazioni sono competitive, riescono davvero a mettere in crisi anche l'economia europea, per esempio, proprio perché, lo si voglia o no, la mano d'opera viene pagata a quattro soldi. E l'abbiamo detto, lo diceva anzi il nostro ospite Cinguno dall'Università di Witwatersrand, 300 euro circa appunto il salario, quando, e così rispondo alla sollecitazione di un ascoltatore, Guglielmo da Taranto, un filone di pane, una pagnotta costa $1.23, insomma, da qui. Quindi fate i conti come possa una famiglia sulle spalle di un minatore sbarcare il lunario. Grazie padre Giulio Albanese per essere stato con noi, per la tua fotografia così lucida. Buona giornata, buon lavoro. Grazie. E adesso giriamo pagina, andiamo in Marocco, o meglio in Spagna. Hasta 450 inmigrantes han intentado pasar a Melilla en la madrugada de este domingo, saltando la valla que separa a la ciudad autónoma de Marruecos, y más de un centenar trataban de alcanzar las costas españolas en patera. En Melilla, 450 subsaharianos han intentado hoy saltar la valla que separa a España de Marruecos. Se han dividido en tres grupos y lo han hecho de manera simultánea. Non accadeva dal 2005 che migranti, soprattutto africani dell'Africa subsahariana, tentassero di scavalcare le reti di Ceuta e Melilla. Ceuta e Melilla sono le due enclave spagnole in territorio marocchino. Cerchiamo di capire meglio quali possono essere i retroscena e le motivazioni più profonde di questo nuovo, chiamiamolo tra virgolette, assalto. Lo facciamo con Jorge Marie Rodriga, che è caporedattore dell'edizione internazionale del País. Jorge, buongiorno. Buongiorno a voi. Jorge, prima di andare a capire meglio che cosa è accaduto e perché, ascoltiamo insieme che cosa sono Ceuta e Melilla. Ceuta e Melilla sono frammenti d'Europa sulla costa mediterranea del Nord Africa. Due città situate al confine col Marocco e passate sotto il controllo spagnolo circa 500 anni fa. Benché aderiscano assieme al Regno di Spagna al Trattato di Schengen, Ceuta e Melilla sono sottoposte a un regime speciale. Sono ancora in vigore, infatti, i controlli doganali all'ingresso del territorio della Comunità Economica Europea per le merci e i viaggiatori provenienti dalle due città. Data la posizione strategica, nel corso dei primi anni 90, il fenomeno dell'immigrazione è andato crescendo. Colte impreparate furono Croce Rossa e altre organizzazioni non governative a farsi carico della gestione umanitaria di immigrati di origine principalmente subsahariana e asiatica. Nella seconda metà degli anni 90, il governo spagnolo, in collaborazione con l'Unione Europea, stanziò i fondi per la costruzione di una recinzione attorno alle due città, con l'obiettivo di renderle inaccessibili ai migranti provenienti dal territorio marocchino circostante e diretti verso la penisola iberica. Dopo che nel 2005 furono centinaia i tentativi sempre più disperati di scavalcare le fortificazioni, il governo spagnolo decise di alzare da 3 a 6 i metri delle recinzioni e di spiegare truppe speciali per rinforzare la sicurezza dei confini. E poi dal 2005, appunto, quando in realtà poi la polizia sparò anche sui migranti facendo parecchi morti, è calato un po' il silenzio su quelle reti fino a due giorni fa, quando... Cos'è accaduto, Jorge? Quello che è accaduto è che un gruppo numeroso di migranti ha cercato di oltrepassare la frontiera per la forza, diciamo, non utilizzando più le porte ma con scale, corde. A differenza di quello accaduto nel 2005, la polizia del Marocco ha attuato cercando di impedirlo, proprio per questo e anche perché, come avete detto, gli ostacoli si sono alzati da 3 a 6 metri e sono riusciti a passare una sessantina di persone, non centinaia, ma certamente un incidente abbastanza grave nella frontiera, nel senso che mostra come la gente è disperata per entrare nel territorio dell'Unione Europea. Ecco, dobbiamo poi dare un quadro, diciamo, su quella che è stata la dinamica, la gestione dei flussi migratori spagnoli, perché dal 2005-2006, mentre appunto Ceuta e Melilla subivano l'assalto, allo stesso tempo le isole Canarie subivano un'altra ondata di sbarchi di migranti che partivano con le piroghe dal Mauritania e dal Senegal. Poi i pattugliamenti di Frontex e accordi di rimpatrio fatti dal governo, se non erro Zapatero all'epoca, come dire, in qualche modo congelarono il problema. Ora riappare questa minaccia, tra virgolette. Perché, Jorge, proprio in questo momento, questo assalto di centinaia di migranti? È casuale, secondo te, o, come dire, c'è una lettura? No, non è casuale. C'è la lettura di che in questo momento le vie per entrare nell'Europa, altre vie si sono chiuse, per esempio dopo il conflitto della Libia, la guerra civile in Libia, tantissimi migranti che cercavano di andare in Europa attraverso il sud dell'Italia e anche dopo la crisi di migranti in Lampedusa, le reti di traffico di persone hanno deviato un grande flusso di persone verso la parte occidentale dell'Africa. C'è anche la guerra civile in Mali, dove centinaia e mille di persone si sono convertite in rifugiati e devono abbandonare il paese. Ci sono tantissimi che hanno scelto la via dell'avventura europea. Da 2005, come tu hai detto benissimo, non ci sono stati questi episodi, anche perché l'Europa, dopo quell'assalto, Bruxelles ha visto che c'era bisogno di misure importanti, soprattutto aiuto economico al Marocco per controllare la migrazione. ma questi episodi di ieri forse dimostrano che quelle misure che in quel tempo hanno funzionato non sono più abbastanza efficiente e che si deve cercare altri tipi di politica. Ecco, quando parliamo di immigrazione noi cerchiamo di ricordarlo sempre al di là dei flussi che fisicamente possiamo osservare sulle nostre coste, al di là degli sbarchi, va sempre considerato che questo numero incredibile di persone che premono sulle frontiere sono una leva politica formidabile. Possono essere messi sul piatto della bilancia da un governo per chiedere qualcosa a un altro governo. Lo abbiamo visto quando Gheddafi governava la Libia, utilizzava la minaccia di ulteriori partenze e sbarchi come rubinetto, apriva, faceva partire, perché poi la polizia del mare libica era assolutamente controllata, controllabile. E quindi da questo punto di vista, da questa lente di ingrandimento, che cosa vuol dire? Che il Marocco forse sta alzando la voce con l'Europa, sta dicendo attenzione, perché qua io ho un sacco di migranti, non riesco a gestirli, aiutatemi voi, può essere questo? Ne penso che, a differenza di altre volte, quando il Marocco ha utilizzato politicamente, quando aveva qualche conflitto con la Spagna, sia con la Spagna sia con l'Unione Europea, questa volta il Marocco non sta utilizzando come forza diciamo il flusso migratorio, ma sta ricevendo una grande quantità di persone che arrivano e che certamente vogliono passare. Quindi io non direi che questa volta è stato il Marocco a utilizzare politicamente questo, ma sì, almeno diciamo una maniera di fare attenzione dell'Europa, di chiedere aiuto. Poi ricordiamo che, come dire, la situazione del Marocco è particolare, perché in tutto quest'anno e mezzo di primavera araba è stato uno dei paesi che è riuscito in qualche modo a contenere la minaccia concedendo riforme anche costituzionali. Allo stesso tempo Mohamed VI deve gestire un crescente flusso di migranti. Ricordiamo che i paesi del Maghreb sono quei paesi più collettori da tutti i paesi dell'Africa subsahariana, cioè dal Niger, dalla Nigeria, dal Senegal, dalla Mauritania, poi si arriva inevitabilmente su quelle coste. Ebbene, un fenomeno che si osserva negli ultimi anni è che si iniziano a installare, iniziano a cercare lavoro prima in Europa, adesso invece nello stesso Marocco. Questo strano spostamento dei confini è l'ultima parte che volevo analizzare con te, Jorghi. L'assalto di due giorni fa alla città, all'enclave spagnola in territorio marocchino, Melia. Noi fra l'altro lavorammo proprio a Ceuta qualche anno fa e troverete parte di quel reportage. Lo posteremo su Facebook, si chiamava Inshallah Europa. Un'intera puntata era dedicata a Ceuta, quella che da alcuni migranti veniva chiamata la dolce prigione. Perché? Perché si entrava in Europa, ma poi alla fine irrimediabilmente si rimaneva bloccati lì. Siamo con Jorge Marie Rodriga, che è caporedattore dell'edizione internazionale di El País, e stiamo cercando di ragionare, radiografare quest'ultimo inaspettato tentativo da parte di alcune centinaia di migranti, appunto, di scavalcare queste reti. È corretto, Jorge, quando, come dire, queste due enclave spagnole vengono definite delle prigioni? Bueno, vorrei dire che secondo l'Unione Europea non sono un enclave spagnolo. Ceuta e Melilla sono città spagnole, lo stesso che Lampedusa è una città italiana. Allo stesso tempo si converte in una sorta di prigione, perché tecnicamente quando queste persone arrivano in Melilla e possono entrare finalmente, si trovano in territorio europeo, ma non possono uscire di là e vengono collocati non in prigione, perché non sono delinquenti, ma in centri speciali di accoglienza dei quali non possono uscire. Di solito vengono rispediti ai suoi paesi d'origine. Questa è la situazione di Ceuta e Melia. In qualche modo alcuni analisti e sociologi raccontano e, come dire, osservano che si sta assistendo a un progressivo spostamento dei confini dell'Europa, cioè i controlli stessi delle polizie europee, no? Che sconfinano in territorio africano. Questi confini europei che si spostano progressivamente verso sud, tu come leggeresti questa cosa? Ne penso che c'è una doppia lettura. Una prima, forse, che è un successo inaspettato e forse non voluto della politica dell'Unione Europea, che da tanto tempo ha chiesto ai paesi dell'altra sponda del Mediterraneo di collaborare nel controllo dei flussi dei migranti senza documenti, dei migranti illegali. ma certamente non è capitato perché la politica sia stato un successo, ma perché le cose sono venute così. E un'altra parte, io direi che fa un po' riflettere come paesi come il Marocco si convertono anche in un flusso, in un punto attrattivo per persone assolutamente disperate dell'Africa, che cercano di entrare in Spagna come porta per accedere ad altri paesi d'Europa, ma che se rimangano per un lungo tempo nel Marocco non sono mica male là. Diciamo che il Marocco sta vivendo una situazione abbastanza curiosa, perché si converte come da una parte come una base per entrare in Europa, ma per l'altra parte è anche un punto di destinazione, sì, già di tanti migranti. L'ultimo tasto che volevo toccare con te, Jorgi, è questa notizia che leggiamo quest'oggi. Dal 1 settembre sarà soppressa in Spagna l'assistenza sanitaria gratuita agli immigrati irregolari, però pare che 5 regioni ancora non abbiano deciso, ne dà notizia fra l'altro proprio il tuo giornale. Che cosa sta accadendo? Come leggere questa come dire, ambivalenza, sì, sull'assistenza sanitaria? Certamente questa misura è una misura, diciamo, economica, ma il problema è che ha perso di vista due altri aspetti molto importanti della sanità non soltanto pubblica, ma della sanità, che uno è l'assistenza sociale ai più poveri e poi il controllo delle malattie. Tantissime associazioni mediche hanno avvertito che è una misura molto pericolosa, perché non si può lasciare senza assistenza a un gruppo importante di persone che forse possono sviluppare delle malattie pericolose per tutti e non possono essere fuori controllo. Quindi ci sono state già 5 regioni che hanno detto che non accettano quella misura del governo centrale e che possono farlo, perché in Spagna la sanità non è competenza del governo centrale, ma delle regioni, cioè sono le regioni quelle che alla fine possono dire ai suoi medici quali pazienti si possono trattare e quali no. Tutti aspettano che il governo, se non una marcia indietro perché è politicamente difficile, almeno faccia una sorta di intento tentativo di mascherare questa misura, nel senso di aprire la mano e dare assistenza al più massimo possibile dei illegali. Ecco, poi per dare, come dire, una dimensione al fenomeno, si stima che l'assistenza di base di cui stiamo parlando, sanitaria, ai migranti regolari siano per 150.000 persone. Insomma, tutto questo deriva da quel decreto per i tagli di ben 10 miliardi della spesa destinati a sanità e istruzione del governo Rajoy. Grazie a Jorge Mari Rodriga per essere stato con noi, capo redattore edizione internazionale del Paese. Buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. E sempre parlando in tema di immigrazione, sono ricominciati nei giorni scorsi gli sbarchi, o meglio, non sappiamo se sono ricominciati, quantomeno ve ne sono stati un paio. 400 migranti a Lampedusa, dopo l'arrivo nei giorni scorsi di piccoli gruppi, 40-50 persone, due giorni fa c'è stata una vera e propria inversione di tendenza con l'arrivo di circa 400 extracomunitari, mentre stanotte un altro barcone è stato individuato, era in acque territoriali ed è stato soccorso dal guardiacoste italiano. Beh, ed alcuni commentatori già si lanceranno in analisi dicendo attenzione, riprenderanno gli sbarchi su Lampedusa. Solo una considerazione mi viene da fare ed è questa: mentre Italia e Libia discutono sui trattati, discutono su quella che sarà anche la politica di gestione dei flussi migratori, dobbiamo ricordare che l'ultimo barcone di cui stavo parlando partiva dalla Tunisia e dobbiamo ricordare che la rete dei trafficanti di uomini, di chi si fa pagare per organizzare le partenze, di chi si fa pagare 1200, 1500, 2000 euro per traghettare dalle coste africane fino in Europa, è ancora lì attiva. Sono professionisti del viaggio come dire, la primavera araba ha in qualche modo scompigliato le carte, ci sono nuovi interlocutori con cui parlare, però la rete è ancora lì, quindi non mi stupirei se nei prossimi giorni dovessero arrivare altri barconi. Allora, 13:53, 18 minuti, sì, parliamo delle altre notizie e giriamo il mappamondo. WhatsApp. Notizie dall'altro lato del mondo. E c'è da ruotarlo più volte perché vi sono parecchie notizie le ultime ore che arrivano dai quattro angoli del globo. La prima dall'Afghanistan, perché l'ISAF, le forze internazionali, hanno confermato l'attacco effettuato con un razzo lanciato sulla pista della base aerea di Bagram, che ha danneggiato l'aereo con cui era arrivato in Afghanistan il comandante delle forze armate americane, il generale Martin Dempsey. Vi sono stati anche due feriti. Questo, ancora una volta, se ve ne fosse bisogno, conferma la pericolosità della minaccia e anzi quanto stanno alzando la testa i talebani in vista del ritiro delle truppe internazionali nel 2014. E poi sempre la Siria, con i suoi riflessi in Libano, è di almeno un morto e 24 feriti il bilancio, per adesso provvisorio, degli scontri che sono in atto da ieri sera a Tripoli, che è una cittadina nel Libano settentrionale. Chi si scontrano? I sostenitori e gli oppositori del regime siriano di Bashar al-Assad, che, come in un gioco di specchi, anche nel vicino paese, nel confinante paese, in Beirut, si sono dati battaglia nei mesi successivi. Il rischio e il timore evocato anzi da molti analisti è che appunto vi sia una propagazione del conflitto. E poi andiamo in Russia, a Mosca, dove la vicenda delle Pussy Riot continua a avere strascichi di varia natura. Da un lato cibernetici, perché vi è stato un attacco degli hacker proprio al sito della corte che ha condannato il gruppo punk. Ebbene, gli hacker che si sono introdotti nel sito del tribunale hanno caricato l'ultimo videoclip, ovviamente, della band. E questa, la performance ovviamente caricata, è quella, come dire, ormai passata alle cronache, quella nella cattedrale moscovita del Cristo Salvatore, quella che recitava la preghiera alla Madonna che salvasse la Russia da Putin. E poi l'altro aspetto è quello commerciale, e i più forse strabuzzeranno gli occhi, anzi drizzeranno le orecchie, perché Pussy Riot diventerà un marchio registrato, e lo ha annunciato chi? Proprio il legale, l'avvocato che ha difeso le tre musiciste che sono già state condannate a 2 anni di reclusione, ma ricordiamo è il primo grado. Ebbene, Mark Fagin ha detto che ha avviato l'iter di registrazione per questo marchio, ed evitare così che altre band, fra l'altro vi sono parecchi emuli anche in Ucraina ad esempio, che altre band appunto possono utilizzare il nome. E quindi fino adesso abbiamo visto una t-shirt ispirata alle Pussy Riot, niente che nei prossimi mesi vedremo i balaclava, questi passamontagna colorati col marchio Pussy Riot. E poi in Pakistan, dove un'autobomba esplosa a Quetta, che è il capoluogo della provincia pakistana del Baluchistan, al passaggio di un veicolo delle guardie di frontiera, causando la morte di un civile e il ferimento di altri 15. Le notizie dal Pakistan arrivano quasi a singhiozzo, ma ricordiamo che rimane zona calda, caldissima. Nei giorni scorsi i giornali avevano riportato la vicenda incredibile di quella ragazzina cristiana Dawn, accusata di aver bruciato il Corano. Il 25 agosto, quindi fra 3 giorni, si spalancheranno le porte del tribunale in Pakistan per questa vicenda. E infine vi porto in Congo, e lo faccio attraverso le pagine di Jason Stearns, che è un analista britannico che vive tra il Congo e Ruanda, tra Kigali e Goma, ed è un appassionato ed esperto studioso delle vicende del paese nella regione dei Grandi Laghi. Vi consiglio, posterò su Facebook il suo blog, si chiama Blog Siasa. Lui ricorda come molti paesi europei hanno annunciato la sospensione degli aiuti a Ruanda. Lo ricorderete, ne abbiamo dato notizia anche noi. Gli Stati Uniti hanno tagliato $200,000 l'anno di aiuti militari a Ruanda. Ebbene, invece sono stati sospesi milioni e milioni di aiuti da parte di paesi come la Svezia, l'Olanda, la Germania e anche il Regno Unito. Il tutto perché? Beh, perché il Ruanda è accusato, nonostante smentiscano da Kigali, di supportare la ribellione dell'Est nel Congo del gruppo ribelle M23. Questa è la ricca pagina degli esteri e l'approfondimento dell'attualità internazionale di Nessun Luogo Lontano. Io ringrazio Miriam Lucchetti e Massimo Brugnone che hanno confezionato con me questa puntata, Paolo Corleoni che gli ha dato musica e ritmo, voi gentili ascoltatori per essere stati con noi anche quest'oggi, un saluto, noi ci risentiamo domani.